tempo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Eccoci insieme, sono le 16:07 a Radio 24, il Sole 24 Ore. Come sempre le nostre due ore di RadioTube, Social Village e poi Social Network, dalle 4 alle 6, insomma, per dirla chiara, insieme per parlare per la prima ora soprattutto di spettacoli. In questa puntata parleremo molto di cinema, parleremo anche di mostre, parleremo di musica con un ospite che io adoro e come sempre andremo in giro per l'Italia con il Touring Club. Invece nella seconda ora RadioTube Social Network, come sempre, tutta l'attualità della rete e dalla rete. Anche questo sabato avremo un co-conduttore d'eccezione, sono molto contenta di presentarvelo, ma lo farò più tardi quando arriverà qui in redazione a Radio 24. Allora, sempre per tenervi in contatto con noi, 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp e SMS, tanto lo so che via SMS arrivano gli insulti e via WhatsApp arrivano i complimenti o le domande. Se avete delle curiosità, soprattutto sul primo tema, perché stiamo per parlare di Blade Runner, ma non parleremo del primo, del secondo film, quello in sala in questi giorni. Cercheremo di dare delle indicazioni sul primo, per chi non se lo ricordasse o chi non l'avesse visto, tutte le istruzioni per l'uso per andare al cinema a vedere questo nuovo blockbuster. Non vi ho detto l'account Twitter o l'account Instagram, @ Marta Cagnola. Ho già messo un video con l'artista musicale che sarà con noi in quest'ora. Io gli voglio molto bene, è veramente un personaggio straordinario. Vabbè, se andate a curiosare su Instagram o su Twitter lo scoprite già. Abbiamo detto che parliamo di cinema, e allora parliamo di cinema. I replicanti sono come ogni altra macchina. Possono essere un vantaggio o un rischio. Se sono un vantaggio, non sono un problema mio. Una volta facevo il tuo lavoro. Ero bravo. Era più semplice allora. Era più semplice allora, una volta facevo il tuo lavoro. Allora, sappiamo che in questo Blade Runner 2049, quello che è uscito in questi giorni, sta ovviamente macinando record di incassi al box office. C'è un eroe della vicenda, che è l'agente K, che è Ryan Gosling, che incontra questo Harrison Ford, che qualcuno, io immagino in tanti, ricorderanno dal primo Blade Runner. Ma siccome la memoria, insomma, va allenata, magari non tutti in questo periodo hanno rivisto il primo Blade Runner per prepararsi al secondo, beh, insomma, ho letto delle cose molto belle che ha scritto uno dei nostri amici di RadioTube, che ci viene a trovare ogni tanto e spesso disturbiamo per telefono. Lui è esperto di tante cose e di fantascienza, sicuramente. Emilio Cozzi, ciao Emilio! Ciao Marta, buongiorno a tutti. Chiocciola addio e grazie per, tanto perché ribadiamo quanto può essere appassionato e esperto di fantascienza anche con il suo account di Twitter. Allora, Emilio, torniamo un po' al primo Blade Runner. Ci torno quando vuoi e estremamente volentieri, sempre. Allora, non possiamo fare veramente l'esegesi che tu hai fatto. Adesso retweeto un pezzo che hai fatto, che hai scritto in questi giorni, che mi è piaciuto molto, ma cerchiamo di capire dove eravamo rimasti con Blade Runner. Allora, eravamo rimasti con Harrison Ford, che tu hai appena citato, vale a dire ai tempi Rick Deckard, cioè il protagonista non solo del film di Ridley Scott, ma anche del romanzo da cui quel film è tratto, che è considerato uno dei capolavori di Philip Dick, un autore che è stato per certi versi uno spartiacque della fantascienza. Ebbene, Rick Deckard, che è un cacciatore di taglie piuttosto atipico, cioè già un membro della Blade Runner, che è questa compagnia, questo settore della polizia, che si occupa di ritirare, come venne in maniera splendidamente descritta nel film, gli androidi, anzi meglio i replicanti, un altro termine che nel libro non c'è ma che invece nel film torna sempre. E quindi lui deve ritirare questi replicanti, queste macchine che poi in realtà non sono esattamente androidi, sono una via di mezzo tra umani sintetici migliorati e appunto robot, e lui deve ritirarli quando questi diventano pericolosi. Questo nel film. Bene, avevamo lasciato Rick Deckard 30 anni prima dei fatti raccontati in un nuovo film. Eravamo nel 2019 e all'epoca stiamo parlando del 1982 e ancora prima del, per quanto riguarda l'opera a cui si ispira, quindi diciamo che il 2019 era un po' diverso, per fortuna, da quello che stiamo vivendo adesso. Che vivremo fra un paio d'anni, certo, perché giustamente come il libro Dick ha cominciato a scriverlo nel 66 e l'ha pubblicato nel 68, la prima pubblicazione del 68. Immaginava appunto un mondo nel 2019, adesso invece il film parte 30 anni dopo con Rick Deckard che avevamo visto come dire scappare da quella Los Angeles abbastanza inquietante, che poi in realtà era molto simile a Tokyo, scappare da Los Angeles con Rachel, questo replicante estremamente sensuale di cui si era pazzamente innamorato, che poi era uno dei sensi meravigliosi del film, era proprio in questa relazione, in questo scoprire l'amore in un essere tendenzialmente che non dovrebbe averne, cioè un essere artificiale, inorganico. Ebbene, li lasciavamo andare verso questo orizzonte solare, peraltro in un finale un pochino attaccato in fretta e furia alla fine, perché non fu quello voluto da Ridley Scott, ma gli venne imposto dalla produzione, peraltro utilizzando, cosa che non tutti sanno, delle scene girate da Stanley Kubrick per Shining. Ebbene, venne attaccato questo finale un pochino posticcio e avevamo lasciato Rick Deckard allontanarsi fuori dalla città con la sua amata. Da allora non ne abbiamo più sentito parlare e invece appunto l'agente K ora andrà proprio a cercarlo. La trama si legge anche su questo del nuovo film, ma non diciamo niente del nuovo film. Beh, ovviamente ne parleremo con Franco D'Assisi nella Rosa Purpurea, ma uno dei dubbi che ci lasciava alla fine era quello della natura di Rick Deckard. Verissimo, una natura chiaramente lasciata in qualche modo equivoca per volere specifico di Scott, mentre invece Dick fu piuttosto chiaro nel romanzo vero e proprio. Il tema si affronta in maniera esplicita e Deckard non è un replicante, mentre nel film di Scott, che secondo me anche per questo motivo è davvero un capolavoro, la risposta non solo è molto equivoca, ma diciamo che nel director's cut, la versione uscita con il suo montaggio, quello che avrebbe voluto fosse il definitivo appunto di Scott, ebbene la risposta è molto suggerita, è molto probabile che Deckard sia a sua volta un replicante. Adesso non voglio rovinare il primo film a chi non l'avesse ancora visto, guardatelo, ma c'è questa tesi piuttosto potente. Bene, è estremamente curioso vedere come questo tema sia stato affrontato dal 2049, ma anche in questo caso ci fermiamo qui, diciamo. Ecco, infatti, tra l'altro, tra le cose che sono state chieste dalla produzione e dal regista Denis Villeneuve di questo Blade Runner 2049 è quella di rivelare il meno possibile della trama, perché giustamente è piena di colpi di scena, certo, ci sono i rimandi, certo, appunto a questo Blade Runner, lo abbiamo sentito. Uno dei rimandi è quello di un animale un po' particolare, perché si ritrovava alla fine del film l'unicorno. Chiaro, che era un animale, questo non rovina nulla se è raccontato, è un sogno ricorrente di Deckard. Lui quando nel primo film gli capita di addormentarsi in un paio di occasioni sogna proprio questo unicorno. Ebbene, l'unicorno in realtà ha un ruolo molto pesante nel rispondere al quesito che tu ponevi prima, perché l'unicorno è una memoria e noi sappiamo che i replicanti, soprattutto nella versione, mi riferisco sempre al primo film, nella versione più avanzata, i famosi Nexus 6, sono differenti dagli altri perché hanno una serie di ricordi, di memorie innestate che in qualche modo li rendono anche spesso inconsapevoli di essere delle repliche umane. E se permetti, questo è un tema pazzesco e l'unicorno in qualche modo simboleggia esattamente questa cosa. Grazie Emilio, allora non è indispensabile aver visto il primo Blade Runner, ci si può godere anche semplicemente la visione di questo nuovo Blade Runner 2049. Certo è che saperne di più, appunto fare questo ripasso, ci aiuta un po' a capire alcune citazioni, non poche, che ci sono in questo nuovo film. Grazie a Emilio Cozzi, chiocciola, Dio e grazie per, noi ti aspettiamo sempre in studio, grazie Emilio, ciao! Ciao a tutti, a prestissimo! Noi ci ritroviamo tra poco! Breaking news. Un'auto ha investito un gruppo di pedoni davanti al Museo di Storia Naturale a Londra. Diverse persone sono rimaste ferite. Poco fa è stato fermato un uomo. Al momento non si hanno altre informazioni. Vi aggiorneremo più tardi. Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Radio Tube Social Village. E rimaniamo dunque aggiornati anche con la redazione, con questa notizia che appunto abbiamo sentito in questo momento da Maria Piera Ceci, gli aggiornamenti su quello che è successo a Londra, ovviamente in tempo reale dalla redazione di GR24, ma noi abbiamo ancora tanti altri argomenti nel nostro RadioTube Social Village. Ve l'avevo anticipato, per questa volta non lo facciamo molto spesso, mi piacerebbe farlo molto di più. Aspettate che prendo un foglio, perché qua l'ho lasciato un po' lontano, voglio raccontarvi per bene quello che sta succedendo a Milano, perché c'è una mostra molto molto molto interessante. È in un luogo che io amo molto, che è il MUDEC, il Museo delle Culture. Lo amo molto anche perché è proprio un luogo fisico particolarmente interessante, particolarmente suggestivo e curioso, e poi è in una bella zona di Milano che spesso i turisti non frequentano, quindi lo consiglio a tutti coloro che venissero appunto in città per scoprire appunto le bellezze e le ricchezze di Milano. Al MUDEC in questo periodo, c'è ancora tempo perché è fino a gennaio, ma andatela a vedere, c'è questa splendida mostra Egitto, la straordinaria scoperta del faraone Amenofi II. Ecco perché lo volevo leggere, perché non voglio sbagliare. È una mostra molto interessante, la scoperta di un faraone che in realtà conosciamo un po' meno, ma è una figura estremamente interessante, e anche il viaggio che ci fa fare questa mostra, beh, è davvero curioso e interessante. Ne parliamo con la coordinatrice scientifica della mostra, l'egittologa Massimiliana Pozzi Battaglia. Buongiorno. Buon pomeriggio. Allora, io ho detto un viaggio perché è un viaggio sicuramente nel tempo, perché andiamo a scoprire appunto il faraone Amenofi II, ma anche il viaggio nella scoperta, cioè affianchiamo un egittologo del quale temevamo di non sapere più nulla, di queste grandissime ricerche di Victor Loré. Andiamo con lui a scavare, a scoprire davvero un faraone che conosciamo un po' meno. Come mai? Perché? Allora, diciamo che la mostra si propone come un viaggio nel tempo e nello spazio, ma forse più viaggi nel tempo e nello spazio, perché viene presentata appunto la figura di questo faraone, il cui nome è stato un po' offuscato dal periodo ricchissimo della storia egiziana e dalla grande documentazione di quel periodo, perché appartiene alla famosa 18ª dinastia, che ha avuto, diciamo, nel suo elenco faraoni notissimi, fra cui il padre di Amenofi II, Tutmosi III. E la grande fama di questi sovrani come Tutmosi III, che appunto riuscì ad allargare i confini dell'Egitto quanto mai erano stati prima, ha fatto sì che il suo ruolo fosse un po' in secondo piano. Eppure è stato un grande faraone che ha dato una stabilità e una ricchezza al suo regno, che sicuramente gli egiziani che l'hanno vissuta ricordano bene, insomma hanno ricordato bene, ma purtroppo diciamo che i secoli, anzi i millenni possiamo dire, hanno offuscato un po' il ricordo di questo grande sovrano. Ci sono reperti davvero interessanti, anche ricostruzioni che ci fanno vivere appunto quel tempo e la scoperta di quel tempo in questa mostra del MUDEC. Sì, sicuramente noi appunto abbiamo voluto proporre la scoperta della tomba come un secondo viaggio nel tempo, perché sostanzialmente la scoperta viene fatta alla fine dell'Ottocento, nel 1898, da Victor Loré, il grande archeologo francese, che ebbe una fortuna direi spudorata, nel senso che aveva trovato. E ci vuole ogni tanto, sì. Ci vuole anche per gli egittologi e anche per gli archeologi. Per gli egittologi, sì, sì, lui era un uomo molto fortunato, ha trovato molte tombe, fra cui appunto quella del padre Tutmosi III e quella del figlio Amenofi II. E fortuna nella fortuna, in quella di Amenofi II ha trovato la cosiddetta seconda cachette, cioè il ripostiglio in cui erano stati nascosti nel primo millennio avanti Cristo i corpi di importantissimi faraoni che precedentemente avevano viste violate le loro tombe. E quindi durante una dinastia successiva questi corpi avevano trovato riparo e nascondiglio, appunto cachette in francese vuol dire nascondiglio, dentro la tomba di Amenofi II. Quindi riuscì a trovare praticamente tre mummie di persone della famiglia reale, fra cui la nonna e la mamma di Tutankhamon, e poi in un altro ripostiglio altre nove mummie illustri, e poi all'interno del sarcofago la mummia di Amenofi II. E allora non era ancora stata trovata la tomba di Tutankhamon, per cui trovò il primo faraone che riposava ancora nel suo sarcofago originale. Vabbè, fortunello. Allora, mese di ottobre, novembre, dicembre, pomeriggi con i bambini o mattinate con i bambini che si annoiano, poi c'è brutto tempo, non si possono portare al parco, si portano alla mostra però. Sì, perché poi per i bambini è stato pensato un percorso apposito guidato da Geronimo Stilton, quindi uno stratopico percorso che li accompagna a mano sia nella scoperta della vita di questo faraone, perché uno dei nostri scopi era anche quello di non far pensare sempre solo alle mummie, ma di far ricordare a tutti quanti che questi grandi uomini del passato, prima di essere monumenti, mummie, tombe, erano persone vive, con delle storie, con degli affetti. Per esempio Amenofi II si è caratterizzato per aver voluto attorno a sé tutti i suoi amici d'infanzia, tutti i suoi funzionari erano stati suoi compagni di scuola, per intendersi. E quindi noi abbiamo voluto appunto celebrare anche la vita di questo sovrano, quindi ricordare alcune delle sue imprese e farcelo, ricordarcelo anche bambino che impara a tirare con l'arco, eccetera, anche attraverso contributi multimediali coinvolgenti, quindi una specie di tuffo nel passato. Che meraviglia, poi... io voglio fare il percorso dei bambini, già il percorso Geronimo Stilton è mio. Grazie Massimiliana Pozzi Battaglia, egittologa, coordinatrice scientifica di questa mostra Egitto, la straordinaria scoperta del faraone Amenofi II. Grazie mille, a presto. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Noi continuiamo ad andare in viaggio, continuiamo. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Abi nuntia Romanis, celestes itavelle ut mea Roma caput orbis terrarum sit. Va e annuncia ai Romani che la volontà degli dei celesti è che la mia Roma diventi la capitale del mondo. E anche in questo sabato pomeriggio arriva il momento di prendere le valigie e andare, di partire con le nostre radioguide sul sito di Radio 24, ma anche sul sito del Touring Club Italiano e soprattutto insieme ad Annarita D'Ambrosio. Ciao Annarita! Ciao a tutti! Marta, oggi... Dove andiamo oggi? Oggi ti porto in una città che ti è anche molto cara, non solo a te devo dire, cara a molti di noi e a moltissimi nostri ascoltatori. Andiamo nella capitale, andiamo a Roma... E nella nostra radio guida raccontiamo una Roma un po' diversa, una Roma un po' segreta, quella dei luoghi aperti grazie ai volontari del Touring Club. Nella radio guida parliamo del Quirinale, della Farnesina, del Museo Boncompagni Ludovisi, ma a Roma proprio da oggi io ti porto per un motivo che stuzzicherà anche il tuo palato. Beh, ormai io cerco di stare a dieta ma non riesco quando viaggio con Annarita. Come mai mi stuzzichi il palato anche questo sabato? Beh, ma io come dico sempre, il viaggio comincia scaricando la nostra radioguida, ma poi lì sul posto che fai? Cioè devi provare tutte le particolarità, e quello è l'aspetto importante di una vacanza. Allora, da oggi Roma diventa capitale dei giovani e della cucina per i giovani. Vi spiego perché. Perché c'è il Festival della Gastronomia presso le Officine Farneto, che è organizzato, e lo abbiamo al telefono con noi, da Luigi Cremona. Ciao Luigi. Ciao, buongiorno e grazie. Buongiorno. Allora, stiamo per andare in onda, come si suol dire, cioè in tempo quasi reale, perché oggi sabato pomeriggio viene inaugurato il Festival della Gastronomia, che dura fino a tutto martedì 10 ottobre, quindi saranno 4 giorni di eventi enogastronomici. Ecco, sono tanti gli eventi enogastronomici, ma il vostro è particolare perché? Ma noi da tanti anni cerchiamo appunto di parlare di chef del mondo della ristorazione, però da un altro, così, da un altro punto di vista, perché in genere si parla di chef sempre molto famosi, chef noti a tutti, chef che ormai stanno molto alla televisione e così via. Ecco, noi invece ci rivolgiamo a quelli poco noti, ai giovani, ma ai giovani molto bravi, quelli che secondo noi sono molto bravi, già sotto i 30 anni. Ecco, noi e che voi premiate, Luigi, voi li premiate. Esatto, noi li mettiamo in gara, quindi saranno gare dal sabato, la domenica, il lunedì, e poi dal lunedì al martedì ci sono le finali, i migliori vanno in finale, e poi il martedì si premieranno il miglior giovane pizzaiolo d'Italia, il miglior giovane chef d'Italia, il miglior, e questa è una novità di quest'anno, il miglior diciamo professionista di sala di quest'anno. Quindi è un po' i vari aspetti della ristorazione trattati in modo completo. E ci tengo anche all'ultimo, cioè alla sala, perché tutti parlano sempre di cucina senza dimenticare che però il vero protagonista spesso è quello che più vediamo accanto a noi, non è tanto il cuoco quanto il personaggio che ci serve, ci riceve innanzitutto, ci accompagna al tavolo, ci serve durante il pasto e poi alla fine appunto ci lascia, è lui che spesso ci lascia poi anche lui un buon ricordo, ci deve lasciare un buon ricordo della nostra esperienza. È vero, Luigi, molto interessante questo aspetto, perché è vero, spesso a lui ci rivolgiamo poi per avere anche dettagli su quello che mangiamo, sì. No? E questo ti assicuro è un vero problema, perché oggi come oggi gli studi alberghieri vivono un momento eccezionale, perché erano andati in crisi 15 anni fa e così via, invece grazie un poco alla popolarità di queste trasmissioni televisive e così via c'è un boom di offerta, su tutti si iscrivono agli studi alberghieri, ma tutti fanno i corsi di cucina, e gli studi alberghieri un tempo erano divisi in metà ristorazione di cucina e metà invece organizzazione, alberghiero, sala, la sala, il servizio, l'accoglienza e così via. Oggi come oggi invece il 90% si iscrive alla cucina, quindi è anche un settore che sta in forte crisi, e questo è un peccato, perché il ristorante appunto si deve sempre basare su un equilibrio tra quello che è la sala e quello che è la cucina. È buono e noi saremmo veramente contenti quando ambedue i settori funzionano in sincronia, perché ovviamente la sala deve poi tradurre al tavolo quello che la cucina prepara, lo deve sapere spiegare nella maniera migliore, e deve soprattutto oggi come oggi non si vuole più tanto didatticismo, così via, è finita un po' con l'epoca anche dei sommelier che ti facevano degustazioni magari in certi ristoranti, soprattutto molto dettagliate sui profumi del vino e così via. Luigi, ci ha incuriosito tanto anche sotto questo aspetto. Allora noi ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori, non solo la nostra radioguida, ma l'appuntamento in corso da oggi a Roma, il Festival della Gastronomia presso le Officine Farneto. Grazie a Luigi Cremona per essere stato con noi. Grazie. Allora, Anna Rita, noi cominciamo a scaricare la nostra radioguida, perché è così che iniziano i viaggi. È vero, lo diciamo sempre. Prima di partire, scaricate la nostra radioguida e già sarete sul posto. Al prossimo sabato, Anna Rita. Al prossimo. Breaking news. Non ci sono feriti gravi fra i pedoni investiti sul marciapiede a Londra davanti al Museo di Storia Naturale. L'uomo al volante è stato arrestato. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto terroristico, non primo di questo genere a Londra. Vi terremo naturalmente aggiornati. Radio Tube Social Village. Minchia, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale, e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. Vabbè, bastano due note e si capisce subito chi c'è con noi questo pomeriggio. Io sono molto, molto, molto contenta perché è tornato a trovarci Marco Masini. Ciao Marco. Ciao, buon pomeriggio, grazie. Che bello. Allora, ci siamo visti prima di Sanremo. E io avevo detto, bello il pezzo di Sanremo. Ci siamo visti a Sanremo e la sorpresa è stata che il successo è stato ancora più grosso di quello che ci si aspettava, ma soprattutto tu hai fatto veramente tremare tutti con questa versione di Signor Tenente, che è stata una sorpresa, è stata una decisione che tutti hanno, sulla carta sembrava un po' folle, invece è stata una scommessa davvero vinta. Ma io non l'ho mai reputata folle, anzi io l'ho sempre reputata una scelta coerente con quello che è un racconto che io da tanti anni faccio, e la rappresentazione della realtà credo che sia la mia più grande passione. Poi, ovvio che un fatto di cronaca del 94 possa apparentemente non corrispondere a quella che è la realtà di oggi, invece credo che anche, nonostante le paure cambiano, i risultati poi siano sempre un po' gli stessi. Quindi mi sembrava doveroso nei confronti di un uomo che, per quel poco che l'ho frequentato io, mi ha regalato tantissimo, mi ha riempito il cuore di coraggio, di forza, mi ha insegnato tante cose che nella vita bisogna sapere affrontare, e anche un'apertura mentale a livello artistico come la sua che quando la vedi e quando la percepisci ti rendi conto di quanto sei piccolo di fronte a certi geni difficili e rari. Marco, io penso il tempo scorre forse adesso più veloce di un tempo, tutto si consuma in maniera molto rapida, e chissà quanti ragazzi sentiranno per la prima volta questo pezzo sentendolo in radio. Che impressione ti fa? Ma guarda, io ho fatto un tour che mi ha messo di fronte, oltre a persone che mi seguono da diversi anni, ma anche a nuove generazioni, quindi è un confronto meraviglioso, è anche una responsabilità di sentirsi rispetto a prima sicuramente diverso, e anche più responsabile a livello comunicativo. Credo che chi ascolterà questa versione si renda conto che poi alla fine il grande omaggio va fatto a tutti i ragazzi che ancora oggi a 20 anni lottano per difendere la giustizia e per questo paese, per se stessi, per la loro voglia di dimostrare quanto ancora si possa essere onesti e veri in un mondo e in un sistema falso e corrotto. L'hai suonata nel tour che adesso è diventato un album. Tour che è diventato in parte un album, perché avrei voluto mettercelo tutto il tour, nel senso che però ci sarebbe voluto ci vorrebbe sicuramente più tempo. E ovviamente per realizzare questo ci sarebbe voluto 2 ore e mezzo, ci sarebbero volute 2 ore e 13-14 minuti per esattezza, ma ho dovuto fare una scelta perché in un CD audio c'entrano soltanto 73-74 minuti di musica se vuoi un rendimento di qualità alta, e quindi ho dovuto fare dei sacrifici e lasciare fuori un po' di brani. Hai tenuto però un sacco di pietre miliari, vuoi sempre bene a quelle canzoni, mi sembra di capire, non solo suonandole dal vivo ma avendole messe qua dentro, da bella stronza, perché lo fai, insomma, queste, cioè che insomma vogliamo bene a queste canzoni. Ma sono diventate di tutti, è la cosa più bella per me, è impossibile non voler bene a qualcosa che ti ha regalato la più grande soddisfazione del mondo, cioè la condivisione. E sono orgoglioso di averle riarrangiate, di ricantate insieme a tanta gente, perché in questo album la cosa che si percepisce di più credo sia proprio il live. Sì. Nel senso, di solito quando si fa un album si va a correggere poi in studio certe cose che magari possano risultare errori o cose, stonature o situazioni magari di silenzio, invece ho cercato di mantenere tutto com'era. Ripeto, l'unica cosa che ho cambiato sono alcune parole che io faccio durante la presentazione di alcuni brani, perché cambiando la scaletta si perde quel filo conduttore. Certo. Che poi invece va ritrovato. a parte questo ho mantenuto tutto come è stato registrato, perché poi alla fine ho deciso di registrare tutto senza, tra virgolette, in buona fede, nel senso senza pensare al fatto che poi magari sarebbe potuto diventare un album dal vivo. Ah, non c'era No, l'ho fatto per la voglia di registrarmi e di riascoltarmi e di riascoltare le emozioni della gente. Infatti poi il volume del pubblico è quasi tenuto a livello della mia voce, questo perché al di là di fare questo tipo di progetto, nella mia mente, nel mio cuore c'era la voglia di riemozionarmi di nuovo insieme al pubblico. Qui a Radio 24 abbiamo Enrico Ruggeri, tra l'altro è uno studio qua vicino che sta registrando delle cose, e lui è famoso per avere scritto delle grandi canzoni mettendosi nei panni di una donna. Tu hai scritto per Noemi una canzone bellissima che era La borsa di una donna, e questa volta però te la sei ripresa nell'album. Beh sì, innanzitutto l'ho scritta insieme a Marco Adami e Antonio Iammarino, con la stessa curiosità di attraversare e scoprire un universo impossibile da conoscere, che è quello femminile. Ma questa voglia l'ho sempre avuta da Cenerentola innamorata in poi, nel senso la voglia di mettersi nei panni di una donna c'è, e c'è dentro il cuore di ogni cantautore. È difficile poi entrarci davvero, e in quei panni purtroppo ci si sta stretti, come ci sta stretta anche una donna, perché al di là di tutto credo che sia anche lei stessa a non conoscersi in maniera completa. Però sul contenuto della borsa ci hai azzeccato veramente in pieno. Ho una mia curiosità personale: disperato non c'è? No, perché Disperato fa parte di un medley che dura 15 minuti ed è un medley assolutamente indivisibile, nel senso sono una serie di brani l'uno dopo l'altro, ed era per me impossibile, se non editando in maniera, quindi modificando in maniera drastica questa situazione, intervenendo in maniera chirurgica e quindi anche artificiale, per questo ho deciso di eliminarlo, per non sacrificare invece canzoni come che ne so, Ti innamorerai, piuttosto che Io ti volevo, che non erano mai finiti poi in un live, quindi avevo voglia di riportarle. Magari quelle canzoni lì sono finite in tutte le raccolte, perché sono Le ragazze serie, Ti vorrei, Disperato, Malinconia, Fuori di qui, sono sempre finite in qualche maniera in una mia raccolta o in ogni mia compilation o in un album da vivo, quindi ho preferito sacrificare quello per far spazio a cose nuove che magari ancora non erano riuscite a... Temevo che ci avessi litigato solo no, per quello. No, assolutamente no. Ti faccio un'ultima domanda, perché sta incontrando le persone negli in-store, e a giudicare dai commenti che ti lasciano le persone nei tuoi social, tutti quelli che ti scrivono raccontano un ricordo della propria vita legato alle loro canzoni. Che cosa ti danno le persone che arrivano agli in-store? Che impressione ti fanno? Che emozione ti lasciano? Perché la sensazione, appunto, leggendoli, è che vogliano condividere quello che tu hai regalato loro con la tua musica. Beh, e poi però non si rendono conto che sono loro a avermi regalato tanto, avermi regalato le storie da raccontare, perché le storie non le puoi inventare. Io sono sempre stato uno attento a quello che gli altri mi scrivevano, e attraverso anche certe confessioni, certi racconti, certe cose che loro ingenuamente e in maniera così anche inconscia sono riusciti a raccontarmi, io ho acquisito un certo tipo di emozione, nello stesso tempo anche un certo tipo di responsabilità. Quindi ho cominciato a vedere da vicino quella che si chiamava un tempo la voce del popolo, no? Nel senso che ho cominciato a sentirmi parte di un esercito, parte di un certo tipo di movimento pacifista verso un mondo che comunque ci inchioda a una cruda realtà purtroppo ostile e difficile da vivere. Quindi la loro ingenuità e la loro purezza mi ha portato anche ad arricchire il mio patrimonio culturale, musicale e forse sociale, perché attraverso questi incontri io scopro tantissimo non solo di chi mi viene a trovare, ma anche di me. Grazie, grazie a Marco Masini, Marco Masini in concerto, ma soprattutto molto contenta di aver avuto Marco Masini a Radio 24. Grazie, grazie Marco, a voi. Torna a trovarci. Volentierissimo, grazie, ciao. Mi sono incontrato a 5 anni cadendo e ho scoperto che cadere fa male. Nel primo schiaffo ho capito il pianto e che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando. Che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento. Si allineano a stento. Un'altra volta indietro e ritrovarmi nudo e ritrovar la voglia di riempire ogni vuoto e fare tutto di nuovo, fare tutto di nuovo. Di nuovo, un attimo dopo. E adesso vorrei sapere come sarebbe il mondo se tutto quanto fosse spostato di un secondo. Adesso ti vedrai scegliere di restare e invece te ne vai e io ti lascio andare. Stavo cantando ma a microfono spento, grazie a Marco Masini per essere stato con noi in questa puntata di RadioTube, ma ci saranno ancora un sacco di ospiti ancora tra poco, dopo il traffico. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. RadioTube Social Village. Sedurre le donne, la società, il tempo. Modellare il mondo a misura del proprio gusto. Sberleffi, caprioli, distanze. Questa sembra essere da subito la sua stella polare. Contenta di poter consigliare finalmente un film, un documentario che io ho amato tantissimo. Non lo dico a caso perché spesso, lo sapete, mi rammarico molto di poter vedere io dei film durante i festival, di volerveli consigliare, ma questi film non sempre arrivano in sala. Questo finalmente sì. Intanto in questi giorni a Milano, poi capiamo se riusciremo a vederlo anche nel resto dell'Italia. Il titolo è molto particolare perché si parla di un amatore. Però non significa solo uomo che ama, non significa solo seduttore, significa tante tante cose. Stiamo parlando di una figura fondamentale per la cultura italiana, che è quella di Piero Portaluppi. Il documentario a lui dedicato, appunto, si intitola L'amatore, e sono contenta di avere qui a RadioTube la regista Maria Mauti. Buongiorno Maria. Buongiorno. E anche il produttore Piero Maranghi. Ciao Piero. Ciao, buongiorno. Finalmente ti abbiamo rapito in studio a Radio 24. Ogni tanto ti chiamiamo, in realtà ti chiamiamo spesso per parlare di musica classica, che è una delle tue passioni, se non forse la principale. Ma questa volta perché questo film, visto che è anche un po' una storia di famiglia? È una storia di famiglia e l'inciampo è generato dal nome. Io bambino sono stato battezzato Piero 2 anni dopo la morte del mio bisnonno, appunto Portaluppi. Questa cosa mi è rimasta attaccata, la curiosità nel tempo di sapere di più di questo personaggio mi ha spinto a incominciare un'attività di ricerca che in questi anni ci ha fatto fare alcune cose, la mostra in triennale, il catalogo con Schirà e tante altre attività. Poi è arrivata questa occasione straordinaria del film, che è una cosa diversa. Questo ci tengo a dirlo subito, cioè abbiamo pensato che il film non dovesse avere un approccio scientifico, non volesse essere qualcosa di esaustivo. Il film è una scelta e per questo è stato affidato a una regista di razza come Maria, che poi insieme ad Antonio Scurati e al sottoscritto ha elaborato un soggetto che poi è diventato una scrittura e che poi Giulia Lazzarini ha raccontato, ed è un film sull'uomo, è un film sull'uomo, per cui non è un film che vuole accontentare tutti, non è un film agiografico, è un film che può anche suscitare, come dire, degli strappi. Sì, perché la figura di Piero Portaluppi, il più grande architetto, possiamo dire il più grande architetto della borghesia milanese del secolo scorso, è una figura che attraversa la storia, attraversa anni difficili della storia, e forse anche per questo Piero Portaluppi non viene così conosciuto, non viene così spiegato. Per tante ragioni. La principale, credo, si possa ricondurre al suo agnosticismo, che negli anni 60 era un peccato mortale, più di essere stato fascista. Portaluppi era un agnostico, per questa ragione Portaluppi è sparito. Poi negli anni, alla fine degli anni 90, attraverso le nostre azioni, la Fondazione Portaluppi e la fortuna straordinaria di questa villa nel cuore di Milano, Villa Necchi, hanno fatto sì che lui riemergesse e forse in qualche modo potesse riconquistare quello che aveva perso. Adesso Portaluppi è un archistar, se vogliamo. Verissimo, verissimo. Maria, tu ti sei trovata davanti a uno dei sogni di ogni documentarista, che è quello di avere degli archivi sconosciuti, ricchissimi da scoprire. Però c'era anche il rischio che c'era una famiglia che te li aveva aperti, quindi è un lavoro bello, però andavi anche a lavorare sulla figura di un uomo, su un periodo storico e anche sulla storia di una famiglia. Più che il rischio c'era il pudore di fronte a questi materiali, no? La cosa che mi ha liberato subito come regista è stato quello di riconoscere un desiderio in Portaluppi che quei filmati fossero tirati fuori dalla cassapanca, fossero ritrovati, perché lui li aveva montati e già pensati per il pubblico. Quindi in fondo io quello questo che fa ho fatto anche che persona, quello che ho fatto è solo riportarli a allargare questo pubblico. Diciamo che fin da subito il desiderio anche con Piero, la fondazione, era quello di pensarlo per il cinema e il circuito dei festival internazionali. Festival internazionali, io appunto l'ho incrociato a Locarno l'anno scorso, poi ha avuto però grandi riconoscimenti, è stato sì, molto amato. Ha avuto il suo percorso, è andato al Festival Internazionale di Rotterdam e poi è volato fino a Buenos Aires, al Bafisi. Tra l'altro a Buenos Aires probabilmente c'è una sua opera. No, c'è una sua architettura. Accidenti. Io ho scoperto un giorno, mentre giravo un documentario con Barenboim, su un taxi ho visto un palazzo, mi sono fermato, sono sceso, ho chiamato la fondazione e adesso è la sede della Lotteria Nazionale. E quindi tu l'hai riconosciuto passando? Beh sì, c'erano dei segni assolutamente proprio chiari. Poi siamo entrati nel palazzo con le guardie, perché c'è la lotteria appunto, e a un certo punto un progettista ci ha portato i disegni ed erano i suoi. Finalmente adesso si può vedere a Milano? Sì, in tre sale. La sua città ha risposto subito al desiderio di conoscere non solo l'artista ma anche l'uomo che c'era dietro. L'augurio è quello di poterlo vedere in tutta Italia. Ma così sarà, posso già confermarlo. A questo proposito forse l'indicazione più importante è quella di segnalare il nostro www.lamatore.com, perché man mano che le cineteche, i cinema adottano questa iniziativa, e noi segnaliamo prontamente tutti i passaggi del film. Piero, ma tu un po' senti di assomigliare in qualcosa? Cioè qualcosa hai ereditato? Il mio rapporto con Portaluppi è ancora aperto. Pur non avendolo conosciuto mi sono fatto delle idee, mi sfugge sempre. Ecco, l'unica cosa in cui gli assomiglio è che cerco di scappare anch'io. Ecco, questo non è poco. Forse da regista con distanza posso dire invece che c'è una parte di lui che si vede soprattutto negli anni 30, questo desiderio di vivere, questo appartiene anche all'amatore, che io riconosco anche, e poi le mille cose da fare, tante passioni. Un po' amatore anche Piero Maranghi. Allora www.lamatore.com, esatto. Così lo tenete d'occhio. Grazie a Maria Mauti, grazie a Piero voi. Maranghi per essere stato con noi. A grazie presto. Grazie a voi. Cora mia da fior a fior, con dolcezza e con amor, vai tu per me. Che la mia felicità vive sol di realtà vicino a te. Col io vivere così, col sole in fronte, e felice canto, beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Mi piace sempre questa Voglio vivere così, me la stavo ascoltando così mentre la stavamo mandando in onda. Mi sto distraendo perché sto guardando in rete la prima foto di loro, di Paolo Sorrentino, che mi segnalava qualche istante fa Cristian Goldoni, Tony Servillo truccato da Berlusconi, perché appunto sarà Berlusconi nel prossimo film di Paolo Sorrentino, loro. Allora, tra qualche istante sono le 16:56, quindi diamo la linea al giornale radio delle 17 con tutti gli aggiornamenti necessari da Londra, poi ci ritroviamo ancora con RadioTube Social Network.